Mi Buon pomeriggio a tutti da GG Telesforo, siete sempre in contatto a quest'ora con il soundcheck, la prova del suono di Radio 24, che oggi ritrova come nostro ospite graditissimo uno dei migliori esponenti del contrabbasso jazz italiano nel mondo. Il piacere di avere di nuovo con noi fratello Joseph Bassi, bentornato al soundcheck Joseph. Grazie, pace e swing a tutti i fratelli. Ecco, questo è un bellissimo augurio che tu fai spesso anche quando fai le lezioni, perché c'è una bellissima iniziativa che ti vedrà coinvolto prestissimo lì a Taiwan, esattamente a Taipei, dove insegnerai swing e ritmo a tutti gli allievi di musica di questa bellissima scuola che si chiama? È la The Art University of Taipei, dove si studia la musica che proviene da tutto il mondo, avendo loro aperto finalmente le frontiere a tutte le culture musicali del mondo. E grazie alla mia splendida signora sono stato introdotto in questa università, sapendo che, grazie a Dio, sono diventato un esperto di swing, che è il ritmo pulsante del cuore dell'essere umano e che è il ritmo che più mi rappresenta. E quindi parlerò dello swing e della cultura afroamericana come l'esperienza musicale più importante del secolo scorso. Eh sì, perché anche da quelle parti le scuole di musica e i conservatori stanno aprendo al jazz. È successo in Italia ormai da diversi anni, si studia, c'è un triennio di jazz, un biennio di jazz nei conservatori più importanti, e quindi anche nei conservatori e nelle scuole di musica in Oriente si scopre questo nuovo linguaggio. Allora, tanto per ricordare ai nostri amici di Radio 24, fratello Joseph Bassi ha sposato ormai da un paio d'anni un'altra contrabbassista eccellente, la seconda contrabbassista dell'orchestra sinfonica cinese di Taipei, lì a Taiwan, ma oggi residente in Italia, richiestissima dalle nostre orchestre sinfoniche. Quindi una vita, una storia d'amore legata a questo meraviglioso strumento. Quindi io vorrei fare una domanda alla tua signora, mio caro fratello Joseph, la signora Cheru, eccellente musicista, che ti farà da interprete in queste lezioni lì a Taipei, giusto? Certo, certo, lei tradurrà in taiwanese il linguaggio dello swing. Ecco, come fa signora Cheru a spiegare lo swing ai suoi colleghi più giovani orientali? Che cosa è per lei lo swing e come lo racconterà? The swing 就是一种爵士的节奏，那可以让你身体感到一个律动，可以让你觉得你想要跳舞，然后happiness，快乐。 但我一开始我从来没有接触过 swing， 自从认识我先生 Giuseppe Bassi 之后，我现在每天早上都会自己去播放一点爵士乐 swing， 然后每天早上就跟我老公一起跳舞。 Ecco, a questo punto, fratello Joseph, ci devi tradurre che cosa ha detto la tua compagna. Beh, lei ha detto semplicemente che ha scoperto lo swing da pochissimo tempo, ossia da 2 anni, da quando ci siamo innamorati, e da quando ha scoperto lo swing ogni mattina lei, appena si sveglia, mette un brano di un grandissimo swingatore, oserei dire il più grande di tutti, perché sa che è con questo brano noi cominciamo il nostro giorno semplicemente ballando, perché lo swing fa muovere l'essere umano. Ma questa è la traduzione alla lettera del discorso di Cheru? No, ovviamente non è la traduzione alla lettera, perché non è che, diciamo, ho capito tanto, che sono riuscito a capire, diciamo, qualche parolina. Non hai capito niente, hai capito soltanto swing. Comunque, parlando di swingatori, l'eccellenza viene rappresentata da Count Basie ed Ella Fitzgerald. Yeah. Eh sì, erano Ella Fitzgerald e Count Basie in un classico intitolato Honeysuckle Rose per parlare di swing con fratello Joseph Basie e la sua compagna Cheru, che presto si trasferiranno con i loro contrabbassi lì a Taipei per dare lezioni di swing a tutti i ragazzi appassionati del genere. Restate in contatto con il soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Di swing ci viene data dalla formidabile Dinah Washington, bellissima donna, ha avuto diversi mariti, ha fatto innamorare tanta gente e credo che abbia in qualche modo avvicinato alla bellezza della femminilità anche un signore chiamato Quincy Jones quando aveva 19-20 anni. Qui Dinah Washington al soundcheck di Radio 24 ci ha proposto I Let a Song Go Out of My Heart, quando in questo appuntamento abbiamo ospite fratello Joseph Bass, musicista contrabbassista italiano nel mondo, e la sua compagna Cheru sono stati già nostri ospiti e ci raccontarono la loro storia d'amore, una storia fatta di musica, fatta di contrabbassi che è avvenuta, si è rivelata attraverso Facebook, l'utilizzo di Facebook con una pagina che è proprio intestata ai contrabbassisti nel mondo, ha fatto sì che questi due musicisti si incontrassero e nascesse così una meravigliosa storia d'amore, con ancora qualche problema di dialettica, perché non ancora il cinese non lo parli bene, Joseph. Purtroppo no, io in cinese conosco le parole fondamentali, le frasi fondamentali. Tipo quali sono? Per esempio, Wan An, Wai Ni. E che significa? Ovviamente Wai Ni vuol dire ti amo. È la cosa più importante che bisogna imparare, se no le taiwanesi, mogli taiwanesi, se non gli dici ti amo ogni notte ti diseredano, insomma. E quindi fra il ti amo in taiwanese e lo swing, insomma, vi avvicinate a una certa comprensione. Eh beh, certo, bisogna dare una botta, come si dice, bisogna fare... Una botta al cerchio e una alla botte. Certo, perché voglio dire, io costringo mia moglie a vivere in una casa piena di swing e io devo osservare alcuni... Signora Cheru, che cosa è lo swing per lei e quanto è stato importante scoprire lo swing con fratello Joseph Bassi? La swing è un 快速的节奏，然后可以让你觉得身体可以跟着移动，然后可以跟着跳舞，然后就像我们家有三只猫，那每天早上播放了swing之后。 Potrebbe essere un po' più precisa. 三只猫就跟着我们一起跳舞，然后就会觉得每天早上一开始起来之后，起床之后就是一个很快乐的感觉，这样。 Che cosa ha detto? Ha detto che, insomma, quando ha scoperto lo swing, lei ha sentito finalmente la voglia di cantare e di ballare, finalmente. Quindi da contrabbassista classica dell'Orchestra Nazionale Cinese si è avvicinata allo swing e questa pulsione ritmica l'ha portata a vivere la sua esistenza in maniera diversa, no? Certo, oltretutto, voglio dire, con la grande maestria che possiede sullo strumento, ci ha messo davvero pochissimo a capire il senso del blues e dello swing. Tra qualche anno sentiremo parlare anche molto di lei nel mondo del jazz. Signora Cheru, qual è uno dei suoi musicisti preferiti per quanto riguarda lo swing? Oscar Peterson. Oscar Peterson al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Eh sì, ogni tanto bisogna tornare a ascoltare la tradizione, ascoltare lo swing, che è il ritmo pulsante dal quale poi è stato generato tutto quello che ascoltiamo oggi, fino all'hip hop. Nella musica, se non c'è swing, che sia rock and roll, ma anche la musica dei Pancabestia, qualcosa succede, perché lo swing è vita, come diceva il nostro fratello Joseph Bassi, che prestissimo, lo ripeto, si trasferirà a Taiwan, a Taipei, per insegnare lo swing ai suoi colleghi cinesi. Con fratello Joseph Bassi abbiamo già fatto alcune centinaia di concerti e un bellissimo disco per Columbia Records intitolato New Joy. E anzi, siccome ai concerti molto spesso tu ti sei presentato con tua moglie Sheru, io posso fare una domanda a tua moglie? Ma certo, certo, ci mancherebbe, è d'obbligo, insomma, chiedere a Sheru cosa pensa di questa splendida musica. Allora, signora Sheru, lei è venuta in tournée con noi più volte. Del nostro repertorio c'è un brano in particolare che le piaceva e che le piace ascoltare anche di questo disco? 有我最喜欢就是由 JJ Tellis Foro所最新发行的专辑 New Joy， 那是由 Giuseppe Bassi 担任那个 bass player， 然后还有 Roberto Pistolesi 担任爵士鼓， 还有 Domenico Sana 担任爵士钢琴。 那他们所组成的一个团体，那他们这首 swing 的颂就叫做 I Wanna Get Be Happy。 Che cosa ha detto oltre a Wanna Get Happy, che è il titolo di questo brano? Beh, ha introdotto i più grandi musicisti italiani oggi in circolazione, oltre Gigi Telesforo, un gigante del piano come Domenico Sanna e un batterista straordinario come Roberto Pistolesi. Cause I wanna feel good. Set up a bubbly deep doot deep we bundle bundle bundle bundle blue pop sweet and deep. Sit with the pop pop see pop do do pop deep deep deep do do pop deep woo. Cause only we can do. Sì, e questo era I Wanna Get Happy, tratto da New Joy, brano che abbiamo scritto proprio una dedica alle nostre compagne, è una canzone ironica, molto divertente, con uno stile classico che ci ha riportato indietro nel tempo, pur rientrando in una produzione invece dal suono tipicamente contemporaneo. Chiudiamo questo appuntamento del Soundcheck di Radio 24 ringraziando per la partecipazione la signora Sheru, eccellente contrabbassista taiwanese che ha sposato da qualche anno fratello Joseph Bassi, che io abbraccio con l'affetto di sempre, e ti ringrazio per essere stato con noi, fratello. Grazie a te, fratello, e spero di riabbracciarti prestissimo e di tornare sulle frequenze di questa meravigliosa emittente radio. E allora io vi lascio con qualcosa di meraviglioso e vorrei fare una piccola raccomandazione soprattutto agli appassionati di musica che in questo momento magari si trovano in automobile, perché questo brano è stato multato ultimamente per eccesso di swing e quindi porta tutti voi a spingere il piede sull'acceleratore in maniera naturale, ma fate attenzione, vi consiglio di parcheggiare la macchina, mettervi da una parte e godervi l'energia, la forza e la passione dello swing di tre meravigliosi musicisti americani guidati dal contrabbassista Christian McBride, che è uno dei nostri preferiti, con Julian Sands al pianoforte, strepitoso al pianoforte che ricorda Oscar Peterson, e Ulysses Owens alla batteria. Attenzione, allacciatevi le cinture di sicurezza. Hallelujah Time, un brano di Oscar Peterson per il trio di Christian McBride a chiudere il soundcheck di Radio 24. A tutti voi buona giornata, buon pomeriggio, buona musica e restate in contatto con Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica.